Quindi ecco, diamo come ci raccomanda il Frankie un po' di potere alla parola rispetto a quello che è lo strapotere invece della carta stampata o a quello che è il potere dei media mainstream. Tentiamo quindi di guardarci un po' intorno e prendiamo in analisi quello che è stato l'inizio di questo nuovo anno, di questo 2018, del quale più o meno la prima trasmissione ha fatto da apripista, facendo un po' un riassunto di quelle che erano state le notizie legate agli accadimenti della fine del 2017, ed ora guardiamoci un po' intorno su questo inizio di nuovo anno. Inizio di nuovo anno che, appunto riprendendo le cose più o meno già dette, si è chiuso con la firma da parte del Ministero dei Beni Culturali della VIA per il nuovo aeroporto di Firenze e quindi non potevano mancare le dichiarazioni, gli infiocchettamenti e le notizie servite su piatti d'argento dei quotidiani e dei giornali locali. Ne prendiamo tanto per cominciare, ne pre prendiamo il primo per cominciare, prendiamo la Nazione del 2 gennaio del 2018. Che si apre appunto con un benvenuto 2018, la sfida del tram contro gli scheletri, TAV, la talpa è già pronta per scavare, 12 mesi cruciali per le grandi opere di trasformazione della città. Segue poi una grande foto con una giovane turista bionda, ci mancherebbe altro, il popolo eletto, la razza superiore che viene a visitare Firenze da anni, che dall'alto di un panorama, non si capisce bene dove siamo, comunque siamo accanto al campanile di Giotto, si vede anche un bel braccio meccanico e l'infografica, una delle caratteristiche appunto della comunicazione contemporanea. Della nazione che ci illustra le novità, quindi questi nuovi punti, quelli che sono gli obiettivi della prossima amministrazione comunale, guidata da Capitan Nardella o Capitan Trivella, come lo abbiamo scherzosamente definito anche nell'ultima puntata. Abbiamo al punto 1 la tranvia, a giugno entreranno in funzione le linee 2 e 3. Poi abbiamo al punto 2 l'aeroporto, via i lavori entro l'estate. Poi abbiamo col colore giallo TAV, attesa la riapertura dei cantieri. Abbiamo al punto 4 in verde lo stadio, prevista l'approvazione della variante di Palazzo Vecchio e la consegna del programma definitivo. Poi abbiamo al punto 5 fortezza, inizio della ristrutturazione. Questa è l'infografica che subito in qualche modo, come abbiamo già detto, ci mette di fronte a quella retorica. Un dispositivo appunto che ben conosce il sistema neoliberista della comunicazione politica e che abbiamo in questi anni, in questi mesi più volte rilevato contestualmente, che appunto lo vediamo dispiegato con tutta la sua forza autoritaria, che è quella di mettere di fronte ai dati di fatto, cioè in sostanza a guardare qui. Con un semplice colpo d'occhio si vede quello che è questo grande disegno dell'amministrazione fiorentina che è già pronto, è già operativo, è già lanciato e aspetta solo che, appunto, non so come se fosse un grande gioco da tavolo, aspetta solo che i lettori, i protagonisti di questa grande avventura che le amministrazioni e le imprese proponenti ci dispiegano sul tavolo scelgano con quale pedina giocare, se con il verde dello stadio, se con il giallo della TAV, con il rosa dell'aeroporto, per cominciare questa partita in questo grande risico, o meglio, forse monopoli tridimensionale. Quindi questa è l'apertura del nuovo anno, alla quale così ci permettiamo di fare subito un'osservazione, nel senso di mettere di fronte questa retorica, questo apparato appunto di comunicazione così dispiegato con quella che purtroppo è stata invece la realtà da una parte della fine dell'anno del 2017, dall'altra degli inizi del 2018. Ci stiamo riferendo a quello che è stata la situazione abbastanza preoccupante della qualità dell'aria in merito ai rilevamenti di PM2,5 e PM10 che proprio nel periodo natalizio, esattamente come è successo l'anno scorso, hanno costretto, metto le virgolette, l'amministrazione comunale a bloccare il traffico, oltre a raccomandare tutta un'altra serie di misure, tutta un'altra serie di raccomandazioni che si inseriscono nel solco, diciamo, di una serie di, sì, di raccomandazioni abbastanza ridicole, se vogliamo, nel senso che si rivolgono in maniera individualizzante e colpevolizzante, diciamo, alla gente comune e alle pratiche di vita quotidiana. Quindi raccomandazioni sono state, ci sono state queste raccomandazioni su non accendere i fuochi perché la carbonella, comunque le combustioni in genere, sono uno dei fattori scatenanti e che incrementano la produzione di PM10, 2,5 e anche gas serra, volendo. La questione della temperatura, delle temperature nelle abitazioni domestiche e quindi questo tipo di provvedimenti e di suggerimenti come condotte generali. A queste si sono accompagnate appunto le misure di chiusura ad orario e in base ad alcune caratteristiche dei mezzi, chiusure del traffico. Quindi ecco, ci importa mettere appunto in evidenza come la situazione dell'aria nella nostra piana fiorentina, nell'area metropolitana, con una distribuzione diversa a seconda di quelle che sono le caratteristiche geografiche e urbanistiche della città, però in maniera importante in ogni sua componente è stata colpita da queste emissioni a un livello rilevato abbastanza alto. Rilevazioni che sono venute dalle centraline di rilevazione dell'ARPAT, sulle quali c'è da tempo il tentativo di un superamento, di un'estensione, di un allargamento, una richiesta da parte dei cittadini che questi monitoraggi da parte dell'ARPAT, che è l'ente competente regionale, siano più capillari e più diffusi. In realtà le centraline dell'ARPAT nell'area metropolitana fiorentina sono ben poche, eppure quelle che c'erano hanno registrato i cosiddetti sforamenti, sforamenti, cioè cosa significa? Che il livello di PM10 e PM2,5 rilevato dalle centraline è superiore a quello stabilito dalla legge. Qui già abbiamo un primissimo problema perché quelli che sono i limiti fissati per legge, dalla legge 2008 poi recepita dalla legge nazionale del 2010, sono limiti già fortemente limitati, nel senso che non tengono oggettivamente conto di quelli che sono riscontri di altri studi medici e di settore per i quali appunto i quali indicano la pericolosità delle PM2,5 e 10 sia per l'apparato respiratorio che per quello cardiovascolare su valori ben più bassi. Quindi diciamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che viene abbreviata solitamente con OMS, ci fissa dei valori per quanto riguarda queste emissioni, mentre queste due leggi che ho citato impongono ai comuni, attraverso i piani di azione comunale PAC, di intervenire quando queste emissioni sono ben più alte. Quindi diciamo c'è già un elemento critico, uno scarto critico tra quelle che sono le raccomandazioni per il rischio alla salute indicate dall'OMS e quelle che invece sono i valori indicati per l'intervento dell'amministratore. Nonostante questo, l'intervento dell'amministratore viene poi ulteriormente ritardato e ulteriormente limitato dal fatto che poi non è chiamato a intervenire subito, ma solo nel caso in cui le previsioni del tempo si incrociano in maniera sfavorevole con gli sforamenti, e quindi questo rende solitamente molto lento e molto inadatta la risposta delle amministrazioni nei confronti appunto dell'inquinamento dell'aria. Un inquinamento che, ripetiamo, ha comportato comunque costretto l'amministrazione comunale fiorentina a prendere queste misure di chiusura del traffico nei giorni tra la fine dell'anno e il 3 di gennaio. Sui giornali questa cosa ha avuto ben poca rilevanza, tranne forse un trafilettino. Appunto del quale in qualche modo ci prendiamo il merito perché ha seguito le denunce che le mamme non inceneritore e altri comitati hanno fatto e continuano a fare nella campagna di monitoraggio dal basso della qualità dell'aria che gira intorno al progetto delle centraline low cost reperibile, visitabile, visibile digitando banalmente su Google che aria tira Firenze e si può andare in questo, diciamo, nella piattaforma che le mamme non inceneritore hanno creato e nella quale si possono vedere rilevamenti delle centraline low cost messe dai cittadini, dagli abitanti in abitazioni private e che, lo specifico, niente hanno a che vedere con quelle dell'ARPAT dalle quali prendono le mosse eventuali azioni dell'amministrazione comunale. Quindi, insomma, per essere sintetici, per ribadirlo, abbiamo cominciato con gli obiettivi del nuovo anno, tra questi anche l'aeroporto, e nello stesso tempo però abbiamo avuto la necessità da parte dell'amministrazione comunale di intervenire su questi livelli di inquinamento. C'è da rilevare, credo, rispetto alla vicenda dei nuovi inquinanti, quindi tra questi il nuovo aeroporto, che proprio nella valutazione di impatto ambientale e nel dibattito anche giornalistico che ha fatto da coda alla fine del 2017, la questione delle valutazioni e monitoraggio della qualità dell'aria è uno degli aspetti caratterizzanti degli impegni che dovrebbero contraddistinguere l'azione dei proponenti il nuovo aeroporto e si fa proprio menzione del fatto che in caso di sforamento anche per le PM10 e per le PM2,5 ci sarebbero dei blocchi per gli aerei. Beh, questo ci fa un po' sorridere e un po', cioè un po' sorridere, come dire, è la tragicommedia che caratterizza le nostre vicende, ci fa ridere perché ammette che chiaramente le emissioni anche da aeromobili portano un aggravio rispetto a quello che è già la situazione attuale, però fatto sta che non si mette in discussione la possibilità che un nuovo aeroporto ci sia, che possa attraverso la pista più grande far atterrare e decollare aerei già anche che più grandi rispetto a quelli che atterrano e decollano ad oggi, perché di un aeroporto intercontinentale si andrebbe a parlare, e quindi questo è quanto. Quindi volevo mettere in evidenza lo stridore tra le dichiarazioni e i nuovi obiettivi che sarebbero fortemente caratterizzanti rispetto appunto all'inquinamento dell'aria e quello invece che è stato la necessità dell'amministrazione di intervenire. Di fatto la cosa appunto ha occupato pochissimo spazio giornalistico mentre ben altre cose ci sono state. Andiamo un po' avanti su quelli che sono alcuni articoli che abbiamo preso in esame nel periodo appunto del quale ci stiamo occupando nella puntata di oggi e guardiamo dalla Nazione del 2 gennaio sempre da Palazzo Vecchio arrivano gli interventi per 700.000 euro in tutta la città, giardini e nuovi giochi per i bambini. Ecco che diciamo nel 2017 e anche nel 2018 prosegue questo impegno più che dichiarato, veramente sbandierato fino al fastidio e alla nausea da parte dell'amministrazione Nardella che continua a lanciare progetti, idee, cifre per quanto riguarda le aree periferiche della città. Il 2017 era stato l'anno delle periferie, il 2018 appunto abbiamo orora visto gli obiettivi che si stanno dando. Quindi i giardini, i nuovi giochi per i bambini, un programma di interventi del valore di 700.000 euro per riqualificare le aree gioco della città. Lo ha deciso la Giunta di Palazzo Vecchio approvando nell'ultima seduta dell'anno una delibera dell'assessore all'ambiente Alessia Bettini. Quindi questo in parte è anche una risposta al tentativo di rispondere a quello che è la polemica, più che polemica, la giusta lotta, la giusta battaglia degli abitanti di alcuni quartieri di Firenze, soprattutto della zona di Rifredi, che hanno cominciato con l'amministrazione comunale un braccio di ferro sulla questione degli alberi, per la quale possiamo, magari non possiamo, però indichiamo e rimandiamo anche a un buon lavoro di interviste che è stato fatto sempre da questa trasmissione, da Passaggio al Nord Ovest, che ha pubblicato, intervistato, lo trovate insomma, guardando, cerciando sulla radio, cercando tra i podcast, e quindi lo sentite dalla diretta e viva voce di quelli che sono i comitati che si stanno opponendo, a questa roba qua, diciamo così. Scorro e vado a un altro articolo che ci è sembrato interessante, sempre in quest'ottica rispetto a quello che è il rapporto tra la città e la sua parte più periferica nel senso di metropolitano del termine. Scopriamo che in viale Lavagnini, dove l'ex Palazzo del Sonno è stato comprato da questa Student Hotel, un'azienda olandese che si è comprata il Palazzo del Sonno con lo scopo di fare il primo, come si dice, ostello di lusso, abbastanza un ossimoro l'idea di un ostello e di lusso, però insomma questa è Firenze, per cui in sostanza quasi tutto quello che viene fatto deve essere declinato poi nel senso del lusso, quindi abbiamo questa particolarità, lo Student Hotel che pagherà, sembra, pagherà l'asfalto o parte dell'asfalto dei viali. Continua l'articolo di Repubblica dicendo costerà 790.000 euro e rientra tra le opere di compensazione per la trasformazione del Palazzo del Sonno. Ecco, quindi si stabilisce questo rapporto perverso, molto pericoloso, che da anni denunciamo tra le amministrazioni pubbliche e soggetti privati imprenditoriali che realizzano grosse operazioni. Cioè, non solo da una parte sono stati ceduti veri e propri poteri pianificatori, ma le mani sulla città che soggetti come questi riescono a mettere si allargano e benché ci venga in qualche modo raccontata la buona novella dell'imprenditore privato che paga per tutti e che quindi apparentemente vuole essere accreditato come un soggetto che compie gesti di generosità e di mecenatismo, dall'altra parte invece vorremmo sottolineare come questo ponga questi soggetti a un livello sempre più alto, no? Di potere nei confronti degli abitanti, nei confronti di pezzi della città che controllano direttamente e esercitando un ricatto anche attraverso le risorse, perché se non è più la fiscalità generale, la cassa di finanziamento delle operazioni di mantenimento dell'urbanità, ma siamo legati ai privati, diciamo le cose per certi aspetti così possono andare bene se le cose vanno bene ai privati, ma potrebbero andare anche particolarmente male nel momento in cui questi privati decidono di muoversi diversamente. Quindi vediamo come ci sembra appunto importante continuare a mantenere separate le cose, mentre da parte dell'amministrazione comunale fiorentina si va nella direzione che ho indicato, che abbiamo indicato leggendo questo articolo che è assolutamente più che come poter dire tesse le lodi di questo soggetto, al quale evidentemente avendo anche appunto un ottimo evidentemente rapporto con l'amministrazione fiorentina è stato anche invitato a comprarsi quello che è uno dei più evidenti scandali e simboli in qualche modo della mala gestione del nostro territorio, che è l'ex area Fiat dell'area tra i viali Belfiore Marcello, che come chi sa chi passa da lì, chi si affaccia, è di fatto una piscina, un lago a cielo aperto, e quindi gli stessi soggetti della Student Hotel sono stati invitati all'amministrazione a comprare anche quello e sembra proprio che l'abbiano fatto. Saranno loro quindi a pagare appunto l'asfaltatura di parte dei viali. Andiamo ancora un pochino oltre, andiamo al 3 gennaio, ci sembra impossibile non gettare l'occhio su questo doppio paginone della Nazione, titolato diciamo in alto a sinistra Il nodo rifiuti. Ecco, in questi due paginoni diciamo che per questa volta la Nazione riesce a non parlare affatto di incenerimento o inceneritore, ma fa un articolo quasi esclusivamente ruotante intorno alla questione dell'abbandono degli ingombranti e del non rispetto delle regole nell'uso dei cassonetti. Questo appunto ci sembra così, più che particolarmente importante in sé, lo rileviamo per appunto mettere in evidenza un'altra volta anche qui un dispositivo, una narrazione, una costruzione in qualche modo ideologica della quale questo giornale sicuramente non tira fuori niente di nuovo dalla sua cassetta degli attrezzi, ma utilizza appunto questo tipo di narrazione nella quale è sicuramente esperta, una narrazione che è colpevolizzante, che tende ad individualizzare i problemi e le problematiche, facendo scomparire invece quelle che sono le connessioni di fondo, l'aspetto sociale, nonché il ruolo appunto poi dell'amministrazione e dei gestori. Quindi in questo articolo appunto c'è la polemica, gli investigatori della differenziata si dà il là a una questione che poi verrà risolta tra qualche giorno e lo vedremo con uno degli ultimi articoli che ho selezionato per questa puntata, che è quello di avere la necessità di avere dei controlli. Questa è una vicenda che appunto soprattutto il sindaco Nardella, l'amministrazione fiorentina tira avanti da un sacco di tempo, che è quella del cattivo uso dei cassonetti, la necessità, secondo loro, di dotare i cassonetti, o molto più probabilmente alcuni cassonetti, di telecamere per controllare, perché appunto questo è l'idea. In sostanza ci sembra interessante, come dicevo all'inizio, il dispiegamento di questo dispositivo culturale che affronta il tema dei rifiuti solo come problema di ordine pubblico. E lo vuole risolvere in chiave securitaria, quindi è una questione di ordine pubblico e come tale va risolta, ci vogliono multe, strumenti repressivi, maggiori controlli. Ecco, questo è quello che emerge da quest'articolo, che anche a guardarlo fa un po' effetto, perché chiaramente le cose che più vengono messe in evidenza sono le immagini, la nazione lo sa e le usa con astuzia, si parte con dei vigili a sinistra, si prosegue con una famiglia felice al centro che invece vorrebbe rappresentare il buon esempio di uso dei cassonetti di raccolta differenziata, perché insieme ai bambini, anche se sempre biondi, anche la mamma è abbastanza bionda, mentre il babbo è leggermente castano, capello corto, ci mancherebbe altro, è dotata di cassonetti con il simbolo non si sa bene esattamente di che cosa, diciamo della circolarità, no? Quindi è una famiglia per bene che fa per bene la differenziata. In alto a destra invece abbiamo due poveracci, due abitanti del centro di Firenze che dopo la notte di Capodanno si sono visti lasciare di fronte ai negozi dei divani in stile, tra l'altro anche sembrerebbero anche di pregio, e denunciano appunto le difficoltà nel farli rimuovere da Alia SPA. Ecco, quindi siamo proprio a grattare il barile da parte della nazione che si mette così a utilizzare anche, diciamo, l'episodio della mattina del primo dell'anno, nel senso che ci sembra un po' ridicolo voler utilizzare due divani sui quali chissà hanno brindato forse per la sera dell'ultimo dell'anno, nella classica notte brava dell'ultimo dell'anno, chissà chi, volerli utilizzare come esempio di questo discorso appunto sul cattivo uso dei cassonetti. Quindi questo è il discorso che fa la nazione, che chiaramente non parla in questo articolo, come ho detto, di incenerimento. Teniamo sempre conto quello che ho detto nella prima puntata, che va avanti la polemica politica, anche se non ha grande spazio giornalistico, però sappiamo che c'è, che vede da una parte Rossi, in qualche modo intenzionato a mettere in discussione l'inceneritore di Firenze e forse intenzionato anche a una revisione del piano regionale dei rifiuti che faccia a meno dell'inceneritore di Case Passerini, previsto fino ad oggi, previsto dalla conferenza dei servizi del 2015, e dall'altra invece Nardella che gli aveva immediatamente risposto dicendo no, no, si va avanti, non se ne può fare a meno. Ecco, la nazione, non sapendo bene che pesci prendere in questo discorso, ha fatto questo articolo, il nodo dei rifiuti, e la questione appunto è dove mettiamo questa roba, chi controlla, chi fa le multe, e si tira subito in ballo la possibilità di costituire una sorta di corpo di polizia volontaria, perché di fatto di quello si sta parlando, cioè di cittadini da una parte comuni, ma non troppo comuni, abbastanza schierati da meritarsi, diciamo, l'investitura ad acquisire dei poteri per poter elevare e mettere sanzioni a chi usa male i cassonetti. Quindi non ci si pone il problema di saper far cambiare le pratiche, saper mettere in condizione le persone di utilizzarli in maniera migliore, ma ci si pone solo il problema di come reprimere chi sbaglia, senza neanche premiare poi chi fa bene. Superiamo purtroppo quest'articolo, andiamo un pochino avanti, sempre il 3 di gennaio, sempre dalla Nazione, come dicevo prima, giusto un trafilettino, una spallettina nella sezione della Piana, in cui su Sest, con fotografia presa dalla mobilitazione del 2 di dicembre contro le grandi opere, quindi la restituzione dei pacchi avvenuta sotto Piazza della Signoria, con una di queste delle foto di quella giornata, o meglio, più precisamente una delle foto della conferenza stampa di lancio della mobilitazione, viene dato lo spazio a questo articolettino, a questo articolo denuncia delle mamme non inceneritore sulla qualità dell'aria da monitorare costantemente. C'è appunto la foto, due attivisti ben noti, uno dei quali passato anche dai nostri microfoni, che con i pacchi, uno della TAV e uno dell'inceneritore, denunciano appunto la questione della qualità dell'aria, che, come ho detto, appunto il giornale del 3 di gennaio, fino a quel giorno rimanevano operative le misure che aveva dovuto adottare l'amministrazione comunale fiorentina. Giustamente le mamme non inceneritore ribadivano in quella stessa giornata, in quegli stessi giorni, la necessità di tenere fortemente sotto controllo la qualità dell'aria, non solo in questi giorni, ma durante tutto l'anno, proprio perché gli sforamenti sono tanti e neanche gli sforamenti sono sufficienti a preservare, a garantire il diritto alla salute. Così, guardando i giornali in questi giorni, non ci poteva cadere l'occhio sulla questione della chiusura delle indagini sulla guerriglia in Piazza San Marco contro Renzi, che dal Repubblica del 4 gennaio, con fotografone dove si vedono Celerini che manganellano, insomma, sì, un manifestante, insomma, neanche particolarmente né bardato né coperto né in atteggiamenti di particolare scontrosità o difesa nei confronti della polizia. Insomma, con questa foto si viene a sapere che rischiano il processo 25 giovani antagonisti che il 5 novembre del 2016 volevano andare verso la Leopolda per contestare il referendum. Diciamo, di questa notizia così mi interessa puntare al limite dire due parole, non tanto per entrare nel merito di quello che è ovviamente da parte nostra, mentre lo leggiamo, un immediato moto di solidarietà nei confronti dei manifestanti della Leopolda di allora. Mi interessa, ecco, mi cade l'occhio su quello che è, sempre nell'articolo di Repubblica, il ritornare al clima che in qualche modo c'era in quell'anno, appunto il 5 novembre del 2016, il giorno della contestazione, in cui Nardella insieme a Renzi ovviamente erano chiusi all'interno della Leopolda, con Firenze centro dichiarato sostanzialmente zona rossa inaccessibile. E ecco, nel ricostruire nell'articolo che ora non sto a leggere, prende troppo tempo, nel ricostruire il clima che si viveva all'interno della Leopolda, si riportano ancora una volta quelle le famose parole con cui Nardella aveva stigmatizzato e aveva urlato, indignato contro la manifestazione che si stava svolgendo, dicendo giù le mani dalla nostra città. Ecco, queste sono, mi sembrano veramente parole oltraggiose, perché laddove questo amministratore comunale, questo sindaco, si erge a rappresentante paladino della difesa della città, e poi lo vediamo in tante altre situazioni che è il primo a mettere a repentaglio il patrimonio storico della città e soprattutto da parte nostra i suoi abitanti. Non ultima, per esempio, tutta questa continua e vomitevole retorica sui monumenti, su tutto quello che è il patrimonio fiorentino, che sarebbe, a detta di Nardella e ovviamente anche del Renzi, chiusi dentro la Leopolda e preoccupatissimi per il patrimonio a rischio del passaggio dei manifestanti, descritti come sempre come orde barbariche fuori controllo e quindi capaci di deturpare, distruggere, addirittura forse rubare e saccheggiare. Questa è la descrizione che si vorrebbe fare. Però questi stessi amministratori non solo non si preoccupano, ma tacciono sul fatto evidente, nero su bianco, visibile e leggibile nel master plan presentato da Toscana Aeroporti, che per esempio in caso di venti, a seconda appunto dei fenomeni ventosi che ci sarebbero nella zona di Peretola, con il nuovo aeroporto circa un 20% dei voli è stimato decollare o atterrare, quindi provenire dal lato Firenze. Quindi loro parlano continuamente di pista monodirezionale, nel senso che, come abbiamo spiegato più volte, la nuova pista di 2400 metri verrebbe spostata e quindi verrebbe ad essere non più perpendicolare all'attuale autostrada, ma gli sarebbe parallela, e in questo essere parallela all'autostrada, mentre loro parlano di monodirezionalità della pista, lasciando intendere che gli aerei decollano e atterrano verso e in direzione Prato, in realtà sappiamo appunto dai loro stessi studi, dagli studi stessi di Toscana Aeroporti, che un circa 20% dei voli è stimato che sarebbe o proveniente o diretto in decollo e in atterraggio dalla parte di Firenze. E le simulazioni ci dicono che questi decolli o questi atterraggi seguirebbero una linea che li porterebbe a sorvolare di poco il centro storico cittadino. Quindi ecco, suggeriamo, ecco, al sindaco Nardella, con umiltà dai nostri microfoni, di preoccuparsi di ben altro rispetto alle calate degli unni così descritte, fatte di manifestanti che mettono in discussione questo modello di sviluppo da loro proposto, e del quale le riunioni dentro la Leopolda sappiamo che tipo di valore strategico hanno acquistato in questi anni, sia da un punto di vista di propaganda, sia anche da un punto di vista di costruzione del Partito Democratico come in qualche modo capitalista collettivo, che è stato in grado di trainare e tenere insieme la baracca almeno fin qui. Poi andiamo a chiudere per le notizie di questa nostra piccola puntata, la nostra incursione, con un'ultima cosa che in qualche modo è inquietante, comunque non poco, benché abbia meritato ben poco spazio, ma questo non ci va assolutamente a stupire, che è la rottura di un rubinetto la leggiamo dal Il Corriere Fiorentino del 7 gennaio, si rompe il rubinetto, un fiume di schiuma nei canali della Piana, l'incidente alle 4 in un silos della Manetti e Roberts, la nota fabbrica Manetti e Roberts che si trova a Calenzano. Appunto, la notizia è scritta in maniera rassicurante, tranquillizzante, benché le immagini che la corredano, ci sono un paio di foto di cui almeno una è uno scenario un po' così, un po' che va giustamente a completare il quadro alla Blade Runner che era venuto fuori con le PM10 e 2,5 di inizio anno. Dopo la Befana c'è anche la schiuma, che non è la schiuma alla bocca di Nardella, neanche quella di Giannotti perché non è riuscita ancora a costruire l'inceneritore, ma è quella appunto dello sversamento attribuito a un incidente che sembrerebbe anche nell'articolo attribuibile a una cattiva manutenzione, anche se ovviamente la Manetti Roberts dice che la manutenzione era stata fatta poco prima. Quindi insomma i canali, alcuni canali scolmatoi che girano nella piana tra i comuni tra Sesto, Campi e Calenzano sono stati riempiti di questa schiuma. La cosa chiaramente non è una notizia particolarmente rassicurante, anche se pochi altri giornali se ne sono occupati, e anche lo stesso Corriere chiude dicendo che ce n'era stata una pure peggiore alcuni anni fa. Quindi, in sostanza, insomma, se ce n'era stata anche una peggio, come dire, ma di che vi volete preoccupare? Vado a chiudere con quello che avevo annunciato quando parlavo appunto della questione dell'articolo della Nazione sull'ordine pubblico e Cassonetti. Siamo al 9 di gennaio quando il Cassonetto selvaggio, gli angeli dei rifiuti, potranno fare le multe. Ecco che è già risolta in pochi giorni la questione. Palazzo Vecchio appunto autorizza la nascita di questi angeli dei rifiuti con facoltà di multa. Non è chiaro se ci sarà un bando o semplicemente si dovrà far pervenire la propria disponibilità. Lanceremo il progetto degli ispettori volontari, ovvero semplici cittadini con il compito di controllare se ai cassonetti si tengono i giusti comportamenti. Questo lo dice l'assessora comunale all'ambiente, Alessia Bettini, che appunto si è dotata di un nuovo collaboratore, come ho detto, che è il signor Luca Gentili, nominato da pochissimo responsabile del verde pubblico, e che potremmo lanciare un concorso ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, ma siamo certi che la risposta sarebbe fin troppo facile, quindi la diamo senza fare la domanda. La domanda potrebbe essere: sarà stato il signor Luca Gentili favorevole o contrario alla costruzione del nuovo aeroporto? Ovviamente più che favorevole, perché è stato pure estensore e firmatario del parere tecnico emesso in sede di procedura di VIA della nuova opera. Quindi sicuramente questa sua caratteristica gli è valsa simpatia ha fatto da indicatore delle sue capacità, e quindi è passato ad essere da poco collaboratore dell'assessoressa comunale all'ambiente Alessia Bettini, che appunto, come abbiamo detto, ha da poco fieramente e con orgoglio organizzato e dato in là questa iniziativa degli angeli dei rifiuti. Dopo gli angeli del bello non potevano mancare gli angeli dei rifiuti. Ci sembra più o meno che abbiamo parlato diffusamente di quello che è successo. Con questo rinnoviamo il nostro impegno a seguire le iniziative dei movimenti, dei comitati, a rimanere informati e controinformati, ad ascoltare questa rubrica e tutte le altre di Radio Wombat. Diciamo solo che ci sentite il lunedì in diretta alle 15:30 e poi in replica il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, sempre alle 15:30. Oppure potete scaricare il podcast dal sito di Radio Wombat e con quello fare come vi pare. Insomma, ve lo scaricate, se volete risparmiare anche le batterie, lo mettete sul telefonino, lo mettete su un vecchio MP3, lo sentite mentre lavate i piatti, mentre andate in bicicletta, mentre fate una passeggiata nel bosco e mentre fate tutto quello che vi pare, ci mancherebbe altro che lo dicessi io, non sono mica Nardella. Allora, un salutone agli amici, alle amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat, alla prossima puntata. Buona lotta a tutti e a tutte, ciao!